scrivono e le vetrine ci guardano male. L'asfalto arriva fino al collo, ma non dove sognavo di andare. Collare, raccordo anulare, ricordami cosa devo dimenticare per imparare a restare senza soffocare, con gli occhi aperti, senza guardare, senza guardare. Aria, aria, aria, aria, aria, aria, senza guardare, senza guardare. A cosa servono i grattacieli? Sto male, è vero che non sto più male.